Transeconomia di Sebastiano Barisoni. Diciassette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Continua la trilogia, così l'abbiamo chiamata, visto che ieri è stata iniziato l'intervento in commissione bicamerale sui crack bancari del ministro dell'economia Padoan, che ha dato, diciamo, una stoccatina alla Banca d'Italia, come abbiamo ricordato ieri, per essere eufemistici, sulla scelta del governatore, e si è sfilato dal caso Boschi politicamente dicendo: io non ho mai dato ai ministri l'incarico di incontrare banchieri, di occuparsi del tema delle banche, né gli ho mai chiesto di riferirmi. Oggi è intervenuto il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, domani sarà la volta dell'ex amministratore delegato Federico Ghizzoni, importantissimo la sua audizione, non nel merito. Qua io continuo a chiedere anche agli ascoltatori di non portare così il cervello all'ammasso del manicheismo, è santo uno e tutto diavolo l'altro e via così. Bisogna avere la freddezza di distinguere tra il merito, e cioè com'è che si è arrivati a questi crack che hanno, e quindi ruolo dei manager e responsabilità dei manager che guidavano queste banche da anni o decenni in alcuni casi, vedi Berneschi a Genova, vedi Consoli a Veneto Banca, vedi Zonini a Vicenza, vedi anche Fornasari e tutta la partita di giro in Etruria, e anche il padre Raboschi, che prima di essere vicepresidente era nel consiglio di amministrazione. Il ruolo poi delle autorità di vigilanza, che non possono cavarsela dicendo semplicemente: beh, non comunicavamo bene, abbiamo fatto il possibile, perché mi sembra una difesa d'ufficio, una difesa così che non va a riconoscere che qualcosa non ha funzionato se ci siamo beccati tutti questi crack bancari, non solo per la crisi che ha coinvolto tutte le banche italiane e quindi il problema delle sofferenze bancarie, dei prestiti, ma in quei casi perché venivano dati prestiti fuori da ogni logica se non quella degli amici e degli amici, e perché nel caso delle due vendite si è anche fatta un'operazione, una porcata vera e propria sul prezzo del titolo delle azioni che non era trattato in borsa, e quindi il modo in cui l'hai rifilato agli azionisti assieme alle obbligazioni, e anche il fatto che hai spesso chiesto prestiti baciati. Poi c'è il tema politico. Lo dico perché nel merito qualcuno mi ha criticato, più di uno, sul per come ho trattato il tema Boschi. Nel merito, eccolo qua, ricominci a leccare, va bene, tanto non posso convincerla. Nel merito, Banca Etruria non è mai stata salvata, e infatti è andata in risoluzione, né vi è stata mai operazione per salvare Etruria. Quindi nel merito non è successo niente. Poi politicamente, altro paio di maniche, il giudizio che uno dà sull'attività dell'allora ministro Boschi, dell'attuale sottosegretario Boschi, se fosse opportuno o no, se ci fosse una sintonia col governo, se c'è stata un'interferenza e quant'altro, è un giudizio politico, e mi sembra che le conseguenze vi siano già come giudizio politico, come dibattito politico, ma mantenendo le due cose separate nulla c'entrano su quello che poi è successo a queste banche, né su come il governo poi ha gestito, o la Banca d'Italia non ha vigilato o ha vigilato male e non ha gestito la risoluzione di queste banche, e vale anche per le due venete che sono arrivate fino alla fine esangui per poi essere cedute a un prezzo simbolico a Banca Intesa. Sono elementi diversi. Uno, quando va a votare, non va a votare per Zonino Consoli, poi farà le sue valutazioni su ruolo, non ruolo politico, opportunità, non opportunità politica della Boschi, e voterà di conseguenza. Ma non c'entra nulla nel merito sui crack, cioè non mescoliamo tutto, perché quando si mescolano le cose l'unico vantaggio ce l'hanno quelli che hanno maggiore responsabilità. Quindi i presidenti, gli ex presidenti di queste banche, i direttori generali di queste banche, che hanno in primis la responsabilità per non avere, e sono indagati per questo, non avere comunicato, ostacolo alla vigilanza e quant'altro. Poi le autorità di vigilanza, anche perché la Consob non se la può cavare semplicemente dicendo comunicavamo male, sono stati autorizzati dalla Consob, o meglio, è stato fatto levare dalla Consob un insieme di indicazioni sui prospetti di certi strumenti di risparmio, l'indicazione è quella che era la tua propensione. Abbiamo poi sentito in audizione che sostanzialmente dare le obbligazioni strutturate nel momento in cui con la riforma, il famoso bail-in, gli obbligazionisti partecipano all'eventuale crack, le indicazioni arrivate erano di dire no, a questo punto siccome non è più un obbligazionista come una volta che tanto devi ridargli il prestito che ti ha concesso, ma può partecipare al crack bancario, non le puoi vendere ai risparmiatori queste cose, le puoi vendere solo agli istituzionali, è stato detto e ridetto. Ebbene, su questo la Consob è stata lacunosa, avendo levato anche le informazioni contenute dentro, e soprattutto la vigilanza nel suo complesso non ha funzionato, perché queste obbligazioni sono state vendute a man bassa a risparmiatori che avevano l'unica colpa di fidarsi del rapporto con la banca. Tutto questo per dire che cosa? Che oggi l'audizione di Visco ha portato, se vogliamo vederla in maniera calcistica, a un 1-1 sul fronte politico, cioè il caso Boschi. Ha una grande autoassoluzione, a mio avviso, sul fronte del merito, e cioè come si è arrivati a questi crack bancari nonostante l'autorità di vigilanza. Nel caso specifico, Visco ha negato di aver mai telefonato a Zonin per caldeggiare un acquisto, una fusione con Veneto Banca, e poi ha detto che lui non incontra mai i banchieri da solo ai registri delle telefonate. Per quello che riguarda la vicenda Boschi, ha escluso alcuna richiesta dell'allora ministro Boschi, non fece una richiesta particolare di interventi, ha detto che ha parlato delle vicende bancarie e anche di Banca Etruria all'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ha detto Visco: non ho notato insistenza, ho avuto la richiesta del Presidente del Consiglio che mi è sembrata divertente, voleva sapere se gli orfi di Arezzo si sarebbero sposati con, fusi con gli orfi di Vicenza. Poi Panetta ha incontrato il Ministro Boschi, ma per una richiesta di informazioni non ci fu nessuna richiesta di fare qualcosa. Quindi, e poi Visco ha detto: quella di Renzi mi è sembrata più una curiosità che una richiesta di valutazione, così come non si è entrati in questione di vigilanza in questi incontri. Visco ha anche aggiunto: non abbiamo mai detto che andava tutto bene, non è mai stata sottovalutata la nostra situazione, l'allarme lo lanciammo già nel 2012. E poi era sbagliata l'idea di preservare le banche del territorio, non mi piacciono, ma insomma questo è un altro commento. Ascoltiamo due passaggi di Visco, uno in cui dice, anzi quello su Zonin lo facciamo ascoltare dopo, quello di carattere più politico, che si riferisce appunto all'allora ministro Boschi e anche all'allora presidente del Consiglio Renzi. Non è che io fui colpito particolarmente quando ebbi un incontro con il presidente del Consiglio una richiesta di informazioni. Non il primo incontro. Il primo incontro, se vuole sapere, si parlò di Boy Scout. Il secondo incontro si parlò di economia. Il terzo incontro avvenne a Palazzo Chigi. Leggo oggi che Renzi dice con Del Rio, no, con Padoan. In realtà Del Rio e Padoan erano entrambi presenti, e io. E parlammo di economia italiana, economia mondiale. Dopodiché lui chiese effettivamente, ma perché questi di Vicenza si vogliono prendere questi di Arezzo? Parlò degli orafi. Ora, io non risposi. Io la presi come una battuta, cioè che gli orafi si vogliono di una città si... Non è che non avessi la percezione che sia Vicenza che Arezzo producono questo tipo di attività. E come tale risposi. No, certo non entrai per niente in condizioni di vigilanza. Si ricorderà Renzi anche che in un successivo incontro, è stato un altro incontro, credo fine primavera o inizio estate, per poter presentargli il direttorio della Banca d'Italia, e lì pure parteciparono, credo, Padoan e Del Rio a colazione da noi, a una richiesta che ci fu su, ma allora non so, perché non ci parla di alcune banche adesso in difficoltà? Io dissi, caro Presidente, delle banche in difficoltà e della vigilanza di vigilanza, io parlo col Ministro. E parlo col Ministro ai sensi molto stretti di un'interpretazione rigorosa del segreto d'ufficio che noi abbiamo sempre avuto. Quindi di questo non ci fu nessuna tentazione né per me. Ma certamente lui la domanda la fece. Basta. Oh, qualcuno mi scrive, beh, dopo l'intervento di Visco, 1-1 palla al centro, immaginando appunto una versione sportiva per quello che riguarda, diciamo, calcistica, per quello che riguarda il tema Boschi. Sì, mi appassiona molto poco, se ho ben capito le dice Visco oggi, nell'escludere alcuna richiesta di interventi della Boschi, segna un punto a favore della Boschi, così come invece le parole di Vegas, però dicendo ma io non ho mai avuto pressione, e di Padoan ieri segnavano un punto contro. Non mi appassiona il tema, anche perché la campagna elettorale è appena iniziata, qualcun altro mi accusa di essere invece contro, di difendere i 5 Stelle, mi sembra un po' strano. Comunque, perché non ho criticato, non ho commentato la proposta di Di Maio ieri di un eventuale referendum sull'euro, se fosse messo nelle condizioni di dover votare, Di Maio voterebbe l'uscita dall'euro. Allora, intanto la campagna elettorale è appena iniziata, ma io voglio vedere i programmi, i progetti, perché così siamo alle chiacchiere da bar e basta. La posizione di chi vi parla sull'uscita dall'euro resta identica, sia che la proponga Salvini, sia che la proponga Di Maio, sia che la proponga Renzi, Berlusconi, non mi interessa, Bersani, Grasso, una follia totale. Ma infatti mi sembra che al di là della buttata, dopodiché Di Maio ha corretto, era un'ipotesi nel caso fossi obbligato a scegliere, ma come estrema razio. Per cui stiamo sereni, da qua a marzo vedrete che ce ne sarà occasione per commentare le proposte. Io ho detto con un unico criterio ci muoveremo, come abbiamo fatto anche in altre campagne, perché non è la prima che ci becchiamo di campagne elettorali: la fattibilità quanto a copertura politica. C'è un articolo della Costituzione italiana che è il più disatteso in assoluto, che dice che una legge non si può fare se non ha una copertura finanziaria. L'avessimo seguito, non avremmo il debito più importante d'Europa e il secondo a livello mondiale, ok? Per cui qualunque proposta va bene, indichi la copertura, non indichi la copertura, per me non è una proposta ma è una buttata. Allora, poi Visco ha continuato, ha detto mai da Banca Italia pressioni sulla Popolare di Vicenza perché acquisisse Etruria. Ho agito con impegno, è un dolore anche per... abbiamo agito con il massimo impegno nell'esclusivo interesse del paese, è un dolore, sono un dolore anche per noi le perdite dei risparmiatori, mai telefonate con Zonini appunto su Veneto Banca. Allora, e poi le reazioni politiche, Renzi che dice noi ineccepibili, mai nessuna pressione, lo riconosce anche il governatore Visco, Di Maio che dice invece Visco svela le pressioni di Renzi, e qui siamo appunto nella opinione politica. Una cosa la devo dire e poi andiamo sugli altri temi del approfondimento. Sì, qualcuno mi scrive che palle, ho capito ragazzi, non decido io il menù del ristorante Focus Economia, lo decide la cronaca della giornata. Posso dire che anche questa volta il governatore ha perso un'occasione per dire qualcosa non ha funzionato, cioè quello che a me lascia esterrefatto è che arriva a Vegas e dice ma no, tutto va. Certo adesso i flussi, il suo vice ha detto i flussi sono migliorati negli ultimi 3 anni. Arriva Visco e dice siamo dispiaciuti, addolorati, abbiamo agito con massimo impegno, ma se ci siamo beccati questi crack dovuti non solo alla crisi e alle sofferenze prodotte dalle imprese che sono andate in difficoltà, ma a delle gestioni padronali, nel senso che venivano, ma abbiamo raccontato la banca Marche che finanziava mega yacht, com'era la storia, in un territorio che nulla era di pertinenza, la stessa Popolare di Vicenza si allarga, non si capisce mai perché, in Sicilia, cioè di tutto, e soprattutto anche i diversi trattamenti tra chi ha ricevuto i prestiti. Allora, possiamo almeno non dico un'autocritica, ma dire guarda, evidentemente con tutto quello che è successo, pur nonostante il nostro sforzo, le cose non hanno funzionato, bisogna pensare di riformare la vigilanza. No, tutti arrivano, dicono che sono dispiaciuti, hanno fatto il massimo sforzo, che non è vero che non erano preoccupati, che non è vero che hanno fatto pressioni fuori luogo, come sarebbe stato quello di far comprare la Vicenza, l'Etruria e la Vicenza, e fine. È tutto andato bene, ma dava la Marchesa, va bene. Il mio amato Renzi e Boschi, va bene, io cosa posso fare nel convincere gli ascoltatori? Nulla, andare avanti, e ribadisco però non è ancora arrivata una seria autocritica o anche critica dall'autorità di vigilanza, stanno tutti a pararsi, diciamo, il ruolo. Gli altri temi, uno in apertura, i dati sul lavoro, anche qui prima di ricevere critiche, i dati diffusi oggi dimostrano che ci sono state nel terzo trimestre 2017 rispetto al terzo trimestre 2014, quindi a tre anni prima, 1.200.000 posti di lavoro dipendenti in più, di cui 837.000 in più a tempo indeterminato, trainati dagli sgravi contributivi, quindi fino agli 8.000 euro che si risparmiavano assumere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, rispetto a quelli a tempo determinato che sono stati più 362.000. Questo per quello che riguarda la fotografia di come era messo il terzo trimestre 2017 rispetto al terzo trimestre 2014. Nello specifico però si nota negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, un calo continuo dei contratti a tempo indeterminato, cioè come sono finiti gli incentivi, calano, tant'è che nel terzo trimestre hanno mostrato la prima flessione dopo due anni. Di questo parlerò subito con il primo ospite, vi dico solo come va la borsa, poi ne avremo ampio commento. Meno 0,53% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 0,70% anche Francoforte, Londra invariata, Dow Jones meno 0,15%, bene Biper più 3,5%, BPM più 3%, Saipem più 3%. Il fronte opposto invece è rappresentato da questo punto di vista da Yux & Rapporté meno 5,30%, Enel meno 2,70%, Terna meno 1,70%. Parleremo anche dell'assemblea degli azionisti del Credito Valtellinese, che oggi è in recupero più 3,13%. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e come sempre anche la diretta su Facebook. L'altro tema riguarderà il via libera della Cina alle importazioni di carne italiane. Allora, vedo molti messaggi. L'articolo che prevede la copertura per ogni iniziativa di legge è l'articolo 81, il più disatteso. Mi ricordo che quando si studiava diritto, già allora veniva detto. Dunque, qualunque critica va bene, ci mancherebbe, ma che mi scriva un ascoltatore: beh, se lei critica il governo, chi le paga lo stipendio? Beh, qui non è la critica nei temi. Ma voglio dire, ma se lei ritiene che mi arrivi lo stipendio dal governo e non dal Sole 24 Ore e Radio, o meglio Radio 24, che si finanzia con la pubblicità che raccoglie ogni anno, e cercando di raccogliere più pubblicità di quelli che sono i costi di gestione della radio, molto semplice il meccanismo, ma perché ascolta sto programma? E mi dica che cosa, così, qual è il suo orientamento politico, che cosa, non so, perché sono tutti dei geni. Allora, i dati sul lavoro invece vanno letti, a mio avviso, per evitare polemiche, come un successo per quello che riguarda il bilancio a tre anni. Te lo dice l'Istat, e guardando, è una nota congiunta Istat, Ministero del Lavoro, INPS, INAIL e ANPAL, il saldo dei contratti di lavoro dipendente è di più 1.200.000 unità, con nello specifico più 837.000 tempi determinati, più 362.000 tempi determinati. Poi però, nel mese di ottobre, per la prima volta dopo due anni e mezzo, si è avuta una flessione lieve, meno 6.000, dei tempi indeterminati, mentre i contratti a termine raggiungono il massimo storico, 1.860.000 euro. 1.860.000 persone, scusatemi. Professor Pietro Garibaldi, che insegna economia del lavoro ed è direttore del Collegio Calaberto di Torino, buonasera. Buonasera a voi. Senta, professore, il titolo potrebbe essere, insomma, questo risultato si è ottenuto perché c'era la decontribuzione e, aggiungo io, chi doveva assumere ha detto: beh, lo faccio in quella finestra, non lo faccio né prima né dopo, ma ormai la decontribuzione non c'è più, l'effetto si è esaurito e forse anche chi doveva assumere a tempo determinato ha già fatto le sue scelte e si opta per il tempo determinato? Direi che è abbastanza condivisibile, cioè i dati sono abbastanza chiari che con la fine della decontribuzione nel 2016, e quindi nell'anno in corso 2017, i contratti a tempo indeterminato, la crescita si è sostanzialmente arrestata. È possibile che alcuni abbiano anticipato le assunzioni al 2016, sapendo che poi la decontribuzione finiva e quindi il risultato è giusto guardarlo su 3 anni. Su 3 anni indubbiamente i posti a tempo indeterminato sono molti quelli creati, tuttavia tutti nei primi 2 anni, 2015 e 2016. Gli ultimi mesi congiunturali, qui i dati sono relativi al terzo trimestre, indubbiamente, quindi se guardiamo l'ultimo miglio di questa strada, vediamo che solo il contratto a termine sta sostenendo la crescita del lavoro. Ed è ovviamente un dato anche in parte preoccupante, anche per chi come me ha sempre in qualche modo sostenuto il contratto di tutele crescenti, non è un bel mercato del lavoro, quello che crea posti di lavoro sì, ma solo a tempo determinato. Cioè senza sfruttare le maggiori flessibilità messe in campo col Jobs Act, perché questo poi lei sta dicendo. Esatto. Per cui se una volta potevi dire beh, il tempo indeterminato blinda talmente tanto il lavoratore che poi che era di fatto così, perché avevamo i dati, i tribunali di lavoro chiedevano nel 90% dei casi il reintegro. E tu dicevi beh, aspetto ad assumere a tempo indeterminato perché poi non posso più neanche rinegoziare o eventualmente mandarlo via se non funziona, non lavora o peggio ancora compie reati. Adesso lei dice il datore di lavoro ha meno scuse perché il nuovo il Jobs Act introduce tutele appunto crescenti e non puoi dire non faccio il salto perché me lo devo tenere a vita, se no. E allora qual è il motivo secondo lei? Il motivo è forse che il governo Renzi, parliamo del 2014, come primo atto, ben prima di introdurre il contratto delle crescenti, ha liberalizzato come mai è avvenuto in Italia il contratto a termine, che in quel contesto probabilmente aveva senso perché avevamo ancora l'articolo 18 e si rischiava di bloccare in un momento particolarmente fragile dell'economia, di bloccare la dinamica occupazionale. Oggi le imprese con questo contratto a termine così semplice, così flessibile, che possono rinnovare 5 volte fino a 3 anni, tendono a ritardare l'assunzione a tempo indeterminato. Non è una bella cosa per i giovani, non è il mercato del lavoro che speravo si arrivasse con tutte le crescenti. Senta, professore, ma potrebbe essere che si sia fermato... Anche, allora l'economia ha avuto andrà benino quest'anno il PIL e quant'altro, però alcuni segnali li abbiamo già dagli anni scorsi e soprattutto quello che continuiamo a ripetere è che questo dato è un po' la media di Trilussa, cioè ci sono imprese che abbiamo parlato ieri sull'export che continuano ad andare molto bene, sempre meglio, e imprese che sto miglioramento l'hanno visto per nulla o addirittura non sono peggiorate. Può essere che le imprese che già stavano andando bene e qui hanno, e quindi la parte diciamo più in crescita ha già approfittato di tutte le assunzioni che voleva fare e oltre allo strumento in sé, quindi Jobs Act, si sia un po' esaurita la domanda di nuove professioni, di nuove assunzioni? Ma no, questo non è difficile dire che si sia esaurita la domanda, l'economia vive con una continua riallocazione di posti di lavoro, alcuni posti di lavoro diventano obsoleti, alcuni posti di lavoro nascono, diventano importanti per le imprese che ne domandano le competenze, quindi il sistema economico, il mercato del lavoro funziona così. Quello che però vediamo è che le assunzioni avvengono con un certo tipo di contratto. Ovviamente è un mercato vivace quello del lavoro italiano, non possiamo dire che è un mercato stagnante, è un mercato depresso, perché i posti di lavoro vengono creati. Vorremmo di migliore qualità, ma non possiamo definire un mercato depresso in questo momento. Ecco, nel frattempo, mentre stiamo parlando, io stavo per far ascoltare le dichiarazioni della nostra Piera Cecci del ministro Giuliano Poletti, però mi sembrano assolutamente superate dagli eventi, perché sapete che in manovra c'era l'ipotesi di ridurre da 3 a 2 anni la durata massima dei tempi determinati. Questa proposta era arrivata da Boeri, se non ricordo male, dal presidente dell'INPS, non che l'abbia proposto lui come legge, però per dire se c'è un eccesso di ricorsi ai tempi determinati, riduciamo la durata del tempo determinato in modo che uno non possa di fatto mascherare un tempo indeterminato con i rinnovi dei tempi determinati. È saltata però questa proposta, quindi non vi faccio neanche ascoltare l'ipotesi avanzata, perché era su questo, del ministro Poletti, perché nulla di fatto in commissione bilancio della Camera sui contratti a termine. L'emendamento a firma di Chiara Ribaudo del PD è condiviso da molti deputati del DEM per la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima dei contratti a termine, non è stato trovato un accordo politico, quindi salta la stretta, diciamo, sui contratti a termine. Un'ultima domanda, professor Garibaldi: visto l'andamento occupazionale, che ripeto non è in negativo, quello che è andato in negativo sono i tempi indeterminati, il dato, il saldo è, mi dispiace per chi continua con la logica del tanto peggio tanto meglio, il dato è positivo. Il problema è che si sono fermati e sono andati anche sotto i contratti indeterminati e tutto si sta trasferendo sui contratti determinati, a tempo determinato. Lei che cosa si attende nei prossimi mesi? Ma adesso abbiamo un altro incentivo in teoria con la legge di bilancio, quello sui giovani, che dovrebbe essere fino a 35 anni se la legge di bilancio non cambia, e quindi potenzialmente di nuovo sono queste piccole droghe che non sono l'ideale nel lungo periodo, dovrebbe in qualche modo sostenere un pochino la domanda a tempo indeterminato per giovani. Nel 2018 saranno sostenuti soltanto per i giovani. Però di fondo resta la sua delusione per il un fatto... pochino. No, ma io apprezzo l'onestà intellettuale sempre, perché lei era, assieme ad altri, ci mancherebbe, un fautore della riforma del mercato del lavoro con le tutele crescenti. E la sua delusione nel vedere che questo strumento, che va sotto il nome di Jobs Act, ma insomma questo vuol dire, non viene usato, cioè è stato usato quando c'era un forte incentivo, 8.000 euro poi passati a 4.000 euro nel 2016, ma come l'incentivo non c'è più, sostanzialmente non si dice, beh, un contratto di quel genere che va a tutele crescenti anche sulle indennità che devi dare è oggettivamente un contratto più simile ad altri in Europa, quindi adesso non avete più la scusa... No. Diciamo che non si può più licenziare chi assumi anche se non ti serve, anche se lavora male, e invece si continua a preferire il tempo determinato. Il tempo determinato, sì, esattamente. Quindi io chiaramente ero d'accordo con il collega, con il presidente dell'INPS Tito Boeri, sul ridurre, provare in qualche modo a ridurre la lunghezza dei contratti a termine. Tuttavia mi sembra la sensazione che in commissione bilancio hanno esagerato, hanno chiesto poi riforme di tutti i tipi anche sui Jobs Act, e quindi alla fine non se ne è fatto nulla, come spesso accade. Quindi magari il prossimo anno ovviamente bisognerebbe forse riguardare questa cosa, che anche lo stesso ministro Poletti, che aveva introdotto nel maggio 2014 questa liberalizzazione dei contratti a termine, era d'accordo. Quindi forse nel 2018 poi ci sarà un nuovo governo, non sarà sempre. Beh, vedremo. Sì, ho capito, cioè, hanno messo dentro di tutto, quindi hanno dovuto bloccare l'emendamento, perché se l'emendamento non si occupa solo dei tempi determinati ma anche di modificare a seconda delle richieste Jobs Act, poi lo blocchi. Probabilmente era meglio limitarsi a ragionare sui tempi determinati. Grazie anche al professor Pietro Garibaldi. Andiamo su meteo e pubblicità, poi la vicenda positiva della prima apertura dopo 16 anni delle nostre esportazioni di carne in Cina, che non è proprio un mercato marginale, la Cina, come, ma tra l'altro in prospettiva, se questo può voler dire il venir meno di altre limitazioni che appunto datano addirittura dagli anni 70 verso il nostro export. E poi chiaramente la borsa e l'audizione del governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su melatonina e valeriana ACT. Una pecorella, due peco. Melatonina e valeriana ACT è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90 euro. Già qui? Ma come hai fatto?

in questo si integra questo con una notizia abbastanza singolare che non riguarda il privato, riguarda il pubblico. Non la voglio mettere nella classifica del venerdì perché stiamo già raccogliendo parecchio materiale. Riguarda il mondo dell'università, che spesso abbiamo criticato per due motivi: uno, per le baronie di alcune università, baronie che poi diventano anche oggetto di scandalo, di cronaca, di investigazioni, e dall'altro perché se l'università volesse veramente mettersi, diciamo, sul mercato, dovrebbe aderire tutta in blocco all'abolizione del valore legale del titolo di studio. Perché questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando fai concorsi poi pubblici, che tu ti sia laureato nell'università X, Y o Z è uguale, perché tanto la laurea ha valore uguale. Allora, se si vogliono mettere in concorrenza, si mettono in concorrenza e, diciamo, non c'è valore legale, così i più bravi o quelli che vogliono passare gli esami andranno in una certa parte e gli altri no. Detto questo, sentite cosa riesce a produrre la nostra università. L'astrofisica italiana Marika Branchesi è nella top 10 dei personaggi scientifici al mondo per il 2017, stilata da Nature, che è la Bibbia, insomma, no? Con Lancet è la Bibbia per la medicina, Nature è la Bibbia per il mondo della ricerca scientifica. Cosa fa lei? Dunque, ha due figli, lavora al laboratorio del Grand Sasso Science Institute, ma la cosa interessante, Nature l'ha citata per il ruolo della scoperta dei primi segnali di onde gravitazionali dalla collisione di due stelle di neutroni, ma la cosa per cui ne parliamo adesso è perché lei è una semi-precaria, e le hanno detto: ti assumiamo con un contratto di 3 anni con la clausola che ti assumiamo come professore associato se i risultati saranno buoni. Ma è divertente che la cosa è arrivata anche poche settimane fa, non sappiamo se per mascherare uno scandalo ancora più grande, totalmente precaria, una che viene citata da Nature come tra le prime 10 al mondo, vuol dire che i suoi capi non hanno capito una mazza, abbiate pazienza. Comunque, l'hanno raggiunta appunto la nostra Valentina Furanetto, e lei si chiama Marika Branchesi. Non me l'aspettavo, perché è un riconoscimento enorme, quindi è stata veramente una sorpresa e sono estremamente onorata. Ci spiega in cosa consiste questa vostra scoperta? È avvenuto tutto il 17 di agosto. I rivelatori di onde gravitazionali hanno captato un segnale. Subito dopo c'è stato un lampo gamma e subito si è capito che era un evento eccezionale, che era questa fusione di due stelle di neutroni. Abbiamo mandato una localizzazione del segnale di onde gravitazionali e da lì è partita la caccia dei telescopi a terra, e la notte hanno osservato un oggetto nuovo in una galassia che è NGC 4993, e da lì per settimane e settimane tutti i telescopi al mondo hanno puntato la stessa zona di cielo e hanno osservato tutti i colori di questo oggetto. E quindi è stato un evento spettacolare e l'inizio di una nuova astronomia che unisce le onde gravitazionali e la luce. Vabbè, adesso quantomeno mi aspetto che il Grand Sasso Science Institute sciolga ogni dubbio se è valida o no e la passi, diciamo, a professore associato, da semi precaria qual è. Cambiamo radicalmente tema. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Dopo il traffico, la Cina rimuove dopo 16 anni il bando sulla carne bovina italiana. Non saranno brevissimi i tempi di ripresa delle esportazioni, ma noi vorremmo capire se questo può aprire il viatico alla rimozione di altri bandi che datano addirittura più di 16 anni nei confronti dei nostri prodotti alimentari, nello specifico del mondo delle carni. Dopo il traffico e prima della borsa. Focus Economia. L'apertura cinese, dicevo, i tempi non saranno strettissimi perché la via libera riguarderà la carne disossata di bovini con meno di 30 mesi. L'annuncio è stato dato dal Ministero dell'Agricoltura cinese. Ed è l'ultimo di una serie di segnali positivi, visto che è già arrivato il dimezzamento dei dazi all'importazione su alcuni prodotti del Made in Italy a tavola, per esempio parmigiano reggiano, grana e altri formaggi stagionati. Di gorgonzola scende il dazio dal 15-12% all'8%, e formaggi in generale dal 10-5%. Vermouth, pensate, c'era un dazio sul nostro vermouth, il Martini, ma non solo, del 65% che scende al 14%, pasta, salsicce, salami dal 15% all'8%. La Cina ha già rimosso a ottobre il blocco delle importazioni di gorgonzola, taleggio e altri formaggi arborinati, riguardava tutta l'Europa. Lisa Ferrarini, vicepresidente di Confindustria per l'Europa ed ex presidente di Assica, che è l'associazione che riunisce l'industria delle carni e dei salumi, un settore che vale circa 32 miliardi di fatturato in Italia, con 180.000 addetti. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, Ferrarini, è contenta anche perché la battaglia lei la svolge in Europa, l'ha svolta come ex presidente di Assica invece a livello internazionale, è contenta, ma può sperare che questo possa essere un ulteriore segnale di altri che arriveranno su altri blocchi? Insomma, che abbiamo sul Cina è un'ottima apertura, però insomma non siamo ancora arrivati a una definizione ben precisa. Lei calcoli che l'anno scorso sulla carne suina, la carne bovina, ok, benissimo, ci vorrà ancora un qualche mese per arrivare alla definizione di tutti i documenti sanitari e quindi ok, però lei calcoli che è un anno che la Cina ha riconosciuto per la carne suina l'Italia come una macro regione del nord, quindi ha riconosciuto l'Italia come se fosse costituita da solo 10 regioni, Marche incluse, Toscana e Marche incluso, il resto dell'Italia è come se non esistesse. E ancora siamo in attesa delle visite che arriveranno l'anno prossimo, i primi dell'anno prossimo, per sdoganare la carne fresca e la carne surgelata suina. E quindi insomma i tempi va benissimo, sono ancora un po' lenti, ma d'altra parte noi dobbiamo dimostrare al mondo che il sistema italiano deve essere riconosciuto come un sistema affidabile e un paese affidabile. Purtroppo abbiamo ancora delle malattie che ci penalizzano. Ecco, infatti gli ascoltatori mi chiedevano perché questi blocchi nella parte suina. Lei citava tra l'altro le 10 regioni, ci può spiegare meglio perché di questa? Perché è partita dagli Stati Uniti, praticamente le regioni che non hanno mai avuto problemi di malattie sanitarie negli ultimi 20 anni sono state riconosciute indenni e quindi praticamente dalla peste suina, dice? Dalla peste suina africana e dalla vescicolare, e sono due malattie, una è ancora purtroppo in Sardegna e la vescicolare suina è ancora in Calabria, però in via di dovrebbe essere insomma un percorso ormai in via di definizione, ormai è risolto il problema, però non è ancora stata riconosciuta. E quindi lei facci i conti di vedere l'Italia divisa in due, cioè per il mondo l'Italia finisce alle Marche. Quindi lei sta dicendo che queste regioni possono esportare la carne suina, mentre sì. Sardegna, che ha ancora un problema di peste suina... No, lei facci i conti che l'Italia è riconosciuta fino alla Toscana e alle Marche. Ok, sotto non esiste l'Italia per l'esportazione suina. Suina, tutti i maiali che nascono sotto alla Toscana e alle Marche non sono riconosciuti per le esportazioni nei paesi extra UE. Ovviamente si parla di Europa, ma non si parla di sistema extra UE. La Sardegna è un altro mega problema che ancora abbiamo dal 1974, che io quando ero presidente di Assica ho perso la voce per continuare a chiedere che venisse debellata una malattia che alla fine sono poche centinaia, ecco, di anni. Volevo chiudere su questo, Ferrarini, ma visto che poi parliamo anche del futuro, in una battuta perché sono sotto GR, ma quanto ci vorrebbe per debellare in Calabria la vescicolare e in Sardegna la peste suina africana, così diciamo l'Italia torna a essere unita anche nelle esportazioni? Soldoni, sì. Ma con 400-500 mila euro lei debella tutto quello che vuole. E perché non viene fatto? Perché secondo me alla fine è un reddito di cittadinanza travestito. Cioè lei dice i sussidi che arrivano agli allevatori per fronteggiare la peste suina africana e la vescicolare di Calabria fanno più comodo che non, diciamo... Sì, però fanno un danno alle esportazioni italiane, al Made in Italy nel mondo, che è devastante, perché quando lei va in Europa, la Direzione Generale per la Sanità e la Tutela del Consumatore, vede un bel bollo rosso

questa settimana in distribuzione in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore. Per la tua comunicazione mirata, chiama l'800 97 97 17. Italia Più è un progetto Publiscoop Più. Avevamo un sogno: offrire ad aziende e professionisti una nuova ed innovativa esperienza di gestione del personale. Reinventare il modo di amministrare, gestire e organizzare il personale con le uniche piattaforme realmente integrate, cloud e mobile. Il sogno di portare nel mondo il nostro software HR. Oggi il sogno è realtà. Le piattaforme HR Zucchetti, scelte da oltre 25.000 clienti, sono leader in Italia. Zucchetti, il software che crea successo. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle, 10 pecorelle, 21 pecorelle, 100 pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Una pecorella, due peco... Melatonina e Valeriana Act è un integratore alimentare a base di melatonina e valeriana. Acquistalo nelle migliori farmacie e parafarmacie. Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90 euro. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Ehi, amico! Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, evviva! Vai su agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè! Aceto balsamico di Modena del Duca. Un profumo inconfondibile, frutto delle generose terre modenesi. Un aroma prelibato, unico. Dal 1891 sulla tua tavola e su quella dei tuoi amici più cari. Per un Natale al vertice del sapore. Aceto balsamico del Duca.it. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo ancora molti messaggi su quanto ci ha raccontato poco fa la vicepresidente Confindustria per l'Europa Lisa Ferrarini, in quanto anche ex presidente dell'Associazione Industria Carni e Salumi, sul fatto, non lo sapevo nemmeno io, ammetto l'ignoranza, che le esportazioni di prodotti suini, e quindi salami, prosciutti e quant'altro, si fermano come diciamo bollino alle Marche e alla Toscana, perché essendovi dei focolai ancora di presenza di peste suina africana in Sardegna e di un altro tipo di malattia, adesso vado a riprendere l'audio, nella parte in Calabria, tutte le regioni del nostro sud e anche centro-sud non possono esportare prodotti suini. È imbarazzante quello che lei ha detto, che basterebbero poche centinaia di migliaia di euro per debellare questi ultimi focolai. E nonostante questi agricoltori ricevono anche sussidi di fatto, ed è proprio questo il motivo per cui il sospetto è che non vogliano rinunciare ai sussidi e preferiscono non debellare gli ultimi focolai di peste suina africana, mi riferisco alla Sardegna, fermo restando, lì c'è un problema anche, insomma, non voglio entrare nel dettaglio di maiali incrociati con cinghiali, insomma è un discorso un po' lungo, mi guardano con schifo dalla regia, ma cosa ho detto, insomma. Carne di maiale è ottima e anche quella di cinghiale, se a uno piace la carne. Però il problema è che tu crei un danno all'intero export agroalimentare di carni di tutto il sud e centro-sud per alcune centinaia o migliaia di agricoltori che vogliono preservare i loro sussidi. Vabbè. Infatti qualcuno mi scrive, basterebbe levare questi sussidi, vediamo se non debellano come hanno fatto in Spagna, dove il problema era più grave, la peste suina africana, e rimettono tutta l'Italia a poter esportare. Allora, come mai non parla della Boschi ancora? Ne stiamo per parlare tra 3 minuti, un attimo. Ma non della Boschi, delle dichiarazioni di Visco oggi che riguardano anche la Boschi. Allora, una notizia che riguarda invece il gruppo La Perla, contratto dal fondo PGM, contratto da Silvio Scaglia, diventerà cinese. Il gruppo cinese Fosun International, che già possiede per esempio il Club Med, ha ottenuto dal fondo che attualmente controlla La Perla, che è appunto il Pacific Global Management controllato da Silvio Scaglia, un periodo di esclusiva di 30 giorni per portare avanti la due diligence con l'obiettivo di acquistare una quota di controllo dell'azienda La Perla, che ricorderete in provincia di Bologna è andata in crisi immagino di non dover spiegare praticamente a nessuno, non solo alle donne ma anche agli uomini, che cosa produce la perla, viste le campagne, diciamo, pubblicitarie abbastanza notabili. Andiamo sulla borsa e la giornata di oggi, partendo dall'assemblea del credito valtellinese, perché il resto della giornata, così poi già entriamo nel tema banche, vede Milano perdere mezzo punto percentuale, Parigi lo 0,70, Francoforte pure, Londra invariata, Dow Jones meno 0,20, bene Saipem più 3,60, Biper Banca più 3,30, Banco BPM più 2,70, Prismian più 1,20, Luxottica più 0,90 come Mediaset. Il fronte opposto invece, Hugh Santa Porte meno 5,60, Enel meno 2,60, Terna meno 2%, A2A meno 1,5 come Unipol e Italgas. Come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore, ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Il credito valtellinese, visto che c'è l'assemblea molto molto delicata sull'aumento di capitale, il titolo oggi ha recuperato un po', certo che è sotto di un 60 e passa per cento dall'inizio anno, più 3,5%. Partiamo da lì e poi anche Hugh, Net-a-Porter ed Enel e invece bene le ex popolari e Saipem. Sì, diciamo che, come giustamente sottolineavi tu, il passivo da recuperare è molto, chissà mai se verrà recuperato tutto. Comunque oggi in linea poi anche con altri istituti medio-piccoli, il Creval ha recuperato il 3,5%, al proposito c'è da sottolineare che in una giornata comunque complessivamente positiva per gli istituti di credito, Biper ha recuperato il 3,3% e Banco BPM il 2,7%. Sicuramente anche Jux è un tema di giornata, è nettamente il peggior titolo, lascia sul terreno il 5,6%. Qui pesa soprattutto un report di Morgan Stanley, le banche d'affari sono solite formulare target price, quindi prezzo obiettivo, raccomandazione di acquisto, di vendita del titolo. In realtà qui la cosa che ha fatto crollare il titolo è stato il taglio sulle previsioni dei margini di Jux, margini che dovrebbero scendere secondo Morgan Stanley già quest'anno, ed è chiaramente un'indicazione negativa che ha pesato sul titolo. Ancora questo per quello che riguarda appunto il bene le ex popolari, dicevamo, giornata un po' difficile per le utilities, abbiamo visto, no? Sì, a livello europeo, infatti a livello europeo sono il settore peggiore assieme a quello dell'energia. A Milano ci sono anche dei fattori contingenti, c'è Credit Suisse, un'altra banca d'affari che si è un po' esercitata sulle utility italiane, ha sottolineato che Italgas da inizio anno ha corso molto, infatti ha guadagnato il 40% e oggi infatti è stata soggetta a vendita, è ceduto l'1,3%. L'unico titolo salvato tra virgolette da Morgan Stanley è quello di Snam, che in realtà da inizio anno è uno di quelli che è andato peggio, e infatti oggi è l'unico che in borsa si è salvato e ha chiuso praticamente sulla parità. Allora, i migliori e peggiori: Trevi Finanziari a meno 10,16, Terni Energia meno 7,90, Ecosantec meno 7,60, MNC meno 6,15, i migliori: Panaria Group più 4,50, Ambientesis più 4, Saipem come tu citavi più 3,60 come il credito valtellinese, Massimo Zanetti più 3,40. Vorrei chiudere su Mediaset, visto che tutto è slittato al 27 febbraio quanto a udienza sulla vicenda Vivendi. Sì, slittato tutto, chiaramente le parti sperano, almeno si pensa questo, che da qui al 27 febbraio si possa trovare, tutti presumono che si troverà un accordo. Anche in questa prospettiva Mediaset ha chiuso in rialzo dello 0,8% oggi. Allora, grazie anche a Ceo Condina, Radio Cori Sole 24 Ore. Adesso arriveremo all'ultimo tema, quindi l'audizione oggi del governatore Ignazio Visco, ancora sulla vicenda delle peste suine e di quello che blocca l'esportazione dei nostri prodotti suini per via di alcuni allevamenti in Calabria e in Sardegna. Qualcuno mi scrive: in Calabria ci sono le vacche sacre, figurati se si preoccupa del resto. Sì, tra l'altro, allora, le vacche sacre è un'altra vicenda, cioè alcuni comuni hanno protestato perché pensavo fosse incredibile, purtroppo è così, perché vacche che appartengono a noti esponenti del mondo dell'andrangheta sono libere di circolare in alcuni paesi della piana, se non ricordo male, di Gioia Tauro, creando danno anche alle coltivazioni. Nessuno ha coraggio di toccarle, ecco perché si chiamano sacre, perché sono di proprietà di esponenti dell''Ndrangheta. Ditemi voi se si può parlare di un paese così, tra l'altro in una regione, ma io con la Calabria non è che posso aggiungere molto altro quanto a masochismo, una regione che è una grandissima produttrice proprio di salumi, di nduja, di salami piccanti, quant'altro, che avrebbe tutto l'interesse nel riuscire a esportarli. Però è vero che nel momento in cui non riesci neanche a bloccare le vacche che appartengono a esponenti dell''Ndrangheta, ma vi arriveremo, magari in classifica cerchiamo anche di calcolare il danno per il resto dell'export e quanto ricevono questi agricoltori di sovvenzioni dallo Stato per debellare queste malattie che volutamente in parte non riescono a debellare. Voilà. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, qualcuno dice: no, adesso ribadisco, lo farò anche domani, che c'è l'altro grande appuntamento di questa trilogia della settimana. Ieri il ministro Padoan, oggi il governatore Visco e domani l'ex numero uno di Unicredit Ghizzoni. Nel merito, in quello che ha portato ai crack bancari delle quattro banche popolari, Etruria, Chieti, Ferrara, Marche, delle due grandi banche venete popolari, Veneto Banca e Popolare di Vicenza, e se vogliamo aggiungere anche la Cassa di risparmio di Genova e Monte dei Paschi, la vicenda è un po' diversa, ma fu il primo. Un conto è capire come ci si è arrivati, cioè le operazioni fatte, e quindi responsabilità in primo luogo dei manager, dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali, dei professori che non citiamo mai, che andarono a valutare il prezzo congruo dell'azione. C'è uno che si chiama Bini, che fu quello che valuto, che disse: no, 62 euro è il prezzo congruo dell'azione. Oh, ma insomma, e dei collegi sindacali, il revisore dei conti, quant'altro. Poi le autorità di vigilanza. Guardate che lo stesso schema che seguimmo per il crack Parmalat a livello di responsabilità. Le autorità di vigilanza non possono, come ha fatto anche oggi il governatore Visco, dire semplicemente: noi eravamo preoccupati, avevamo capito, e tutto va bene così, non è, cioè, perché sennò è tutta un'autoassoluzione. Poi c'è la ricaduta politica, ma visto che Etruria non se l'è comprata nessuno e visto che Etruria è fallita, un conto è parlare del merito, del perché si è arrivati a un fallimento, altra cosa è chiedere conto alla Boschio, a chi per essa, dell'opportunità politica di interessarsi di una banca in cui suo padre era vicepresidente. Questo ha una ricaduta politica, cioè di consenso elettorale o di dissenso elettorale, che si vedrà poi alla fine alle urne e quant'altro. Ma non confondiamo i due piani sull'opportunità e le conseguenze politiche con il piano di chi ha mandato in tilt, a gambe all'aria, queste banche, inclusa la Popolare dell'Etruria, perché sennò si fa un gran calderone e la politica prende sopravvento le responsabilità vere, che ripeto sono manager, organismi preposti a vigilare all'interno, consiglieri indipendenti, CDA, revisori contabili, esperti che hanno dato le consulenze, collegio dei sindaci e autorità di vigilanza su questo. Sennò sembra quasi che a questo punto è la politica che ha fatto fallire le banche. Dopodiché la valutazione sul ruolo della Boschi o del governo di allora, uno la fa come valutazione politica ed esprime nel massimo momento al voto il suo giudizio, mica c'è niente da nascondere. Che il danno o la ricaduta politica sulla Boschi sia evidente e l'abbia fatta oggetto di attacchi è sotto gli occhi di tutti, non è che lo devo dire io. Allora, l'audizione di Visco, a mio avviso molto autoassolutoria. Comunque partiamo dalla parte che riguardava appunto la Boschi, abbiamo già sentito nella prima parte del programma. Mai da Banca Italia pressione popolare di Vicenza, dice Visco, non ho mai incontrato Zonin. L'ho incontrato in Banca d'Italia per 5 minuti, mi raccomandai equilibrio, interventi paritari, mai screzzi con i presidenti del Consiglio. Possiamo riascoltare il passaggio in cui Visco dice: no, me ne parlò da Boschi mai, me ne parlò da Boschi nessuna richiesta di interventi in Etruria. Partiamo da questo primo passaggio. E poi non ho notato insistenze da parte di Renzi su Etruria. Ci si chiese con chi la ministra poteva parlare di questioni varie legate a Etruria. Che cosa potevo fare io? Potevo dire non se ne parla proprio. Potevo dire se ne parla perché è nostro dovere istituzionale parlare con ministri. Guardate che io ricevo moltissimi politici, presidenti, tutte le regioni di cui voi sono venuti a parlare. Ricevo altre richieste. Per informarsi sui problemi del territorio, sul fatto che se una banca sta male, ricevo. In quel caso, ovviamente, ci fu una richiesta legittima, credo, di interesse su quelle che sono le questioni di territorio in quel caso. Il dottor Panetta, vice direttore generale della Banca d'Italia, fu la persona che parlò, come avete letto sui giornali, con la ministra in due occasioni. Gli disse niente? No, perché avevamo già detto all'inizio, io e Panetta, non si parla di questioni di vigilanza riservate. E nella potete parlare con Panetta, però vi posso riassumere io quello che lui disse a me subito dopo e al direttore generale per riferendo di questi colloqui brevi, nei quali non ci fu nessuna richiesta particolare di interventi della Banca d'Italia, in cui però ci fu una manifestazione di dispiacere e di preoccupazione sulle conseguenze che la crisi di questa banca poteva avere ai fini per il territorio. E poi la frase che abbiamo fatto ascoltare in apertura del programma, invece ho parlato con ne parlai con Renzi, ho avuto 3 incontri col presidente Consiglio Renzi, l'ultimo mi fece una battuta che mi è sembrata divertente, quella sugli orfi di Arezzo con gli orfi di Vicenza, ma niente di più, non ho notato insistenza. Allora, Marco Ferrando, caporedattore della Finanza del Sole 24 Ore, che ci sta accompagnando e domani anche te tocca, mi sembra di poter dire, chi vuole gioco politico calcistico dice 1-1 palla al centro, perché ieri Padova aveva tra virgolette un po' scaricato la Boschi e Vegas l'aveva invece abbastanza inguaiata, appunto, pur dicendo che venerdì, oggi Visco dice no, mai insistenza della Boschi, e Renzi non mi è sembrato particolarmente, ma ha fatto una battuta all'interno di un altro ragionamento su. Però al di là della partita di calcio, di cui non me ne frega nulla, possiamo dire che anche questa volta Visco ha perso un'occasione per dire attenzione, qualcosa nel sistema di vigilanza non ha funzionato, non funziona. Se siamo arrivati a tutte ste cavolo di crisi bancarie, al di là della parte fisiologica, cioè di imprese che con la crisi sono saltate, quelle le hanno avute tutte le banche, Unicredit ha fatto in tutto quanto 13 miliardi di aumento di capitale, però lì ci sono dei casi di patologia, di prestiti dati agli amici. Ecco, io l'autocritica o anche la critica, dire bisognerà riformare, qualcosa non ha funzionato, non l'ho sentita. Sì, è un'occasione persa per gli appassionati del genere, di questo genere, che è appunto la ricostruzione delle crisi bancarie. Ci sono state 2 sorprese. Ieri Padoan è stato di fatto, come dicevi tu, ha scaricato politicamente la Boschi, e quindi è stata un po' una sorpresa, perché abbiamo anche visto Visco scaricato, un però. Padoan un po' più, diciamo, disinvolto del normale. E la sorpresa di oggi è che di fatto Visco ha fatto la pace con Renzi, perché che non a caso poi l'ha ringraziato. Quindi un po' di sorprese ci sono, ma come dici tu, siamo davvero a un sempre a un regolare i rapporti tra i soggetti di questa, tra i poteri, diciamo. Tra i poteri. Nessuno che alza un po' la testa rispetto all'elemento vizioso di questa dinamica, perché al di là degli incontri, al di là di chi ha detto che cosa, di pressioni che poi a quanto pare, almeno nelle parole di Padoan ieri e di Visco oggi, non sono state determinanti, ma questo già lo sapevamo perché le pressioni non hanno evitato il tracollo di Etruria, ecco, nessuno che dica, come dici tu, che il sistema degli anni scorsi, che è lo stesso di oggi, non è stato in grado, nonostante tutto questo attivismo, di rendersi conto della crisi. Questo in realtà Visco l'ha detto, ma era uno dei tanti passaggi, e soprattutto non è stato in grado di trovare una soluzione credibile, perché al di là del merito di questi incontri, comunque Zonin e Banca d'Italia c'è stato, sicuramente si è parlato di Veneto, quindi evidentemente attenzione sul problema c'era, ma quell'attenzione non avrà rilevanza penale, perlomeno questa è la linea che i diretti interessati evidentemente vogliono far passare, ma la cosa più grave è che non è riuscita a intervenire sul merito della questione, perché comunque... Sì, io trovo allucinante questo, al di là di quello che mi scrivono alcuni ascoltatori, è sbagliata, la ministra ha usato il suo incarico istituzionale per il trasferimento della banca che aveva come vicepresidente il proprio padre. Questo è il tema dell'opportunità politica, perché la banca non l'ha salvata nessuno. Altra cosa se mi diceste, dopo l'interessamento è arrivata un'operazione condotta dalla Boschi. Staremo parlando sì del merito, ma la banca è fallita. Quello che il fatto se fosse opportuno o no che la Boschi incontrasse o citasse anche solo Banca Etruria con un ministro, con un presidente della Consob, con un governatore, con un vice governatore, con il direttore generale, scusatemi, questo è un giudizio che ognuno di noi dà e poi lo tramuta, immagino, anche nell'urna. E mi sembra che tutto si possa dire tranne che questa vicenda stia portando bene politicamente alla Boschi, perché insomma il danno mi sembra dal punto di vista politico inequivocabile. Altra cosa è dire che questo sia entrato nel merito. Posso dirti una cosa? È come se la polizia stradale, che ha compito di vigilare anche la sicurezza delle strade, notasse che si schiantano un insieme di pullman lungo un tratto e si limitasse a dire: noi però abbiamo fatto i controlli, abbiamo messo in guardia. Ma non puoi limitarti a dire questo, vuol dire che quella strada va chiusa, c'è un problema. Non puoi dirmi semplicemente: io però il mio lavoro di polizia stradale l'ho fatto, se ci hai un'ecatombe, diciamo, scusatemi l'esempio, di incidenti stradali nel tratto che tu stai controllando. Beh, questo Banca d'Italia e Consob ci vengono a dire. No, perché il problema è che i pullman continuano a transitare e noi pensiamo, bravo, in questo clima, nel caso in cui, purtroppo non impossibile, non abbiamo nessun caso in mente, ma statisticamente prima o poi un'altra banca andrà in crisi, immaginiamo i poteri più o meno forti coinvolti in questa vicenda con quale atteggiamento affronteranno la questione. L'unico atteggiamento sarà quello del medico, che per prima cosa si accerta di non avere responsabilità. Sì, ed è l'esito peggiore. È il problema. Oppure l'esempio può essere un ospedale, ti iniziano a morire pazienti in sala operatoria e uno dice: io ho fatto tutto il possibile, ho capito, ma se il caso diventa patologico non mi puoi dire l'ospedale funziona da Dio, perché sono morti ma funziona da Dio, perché tutti no, anche perché, come qualcuno mi ricorda, pure il governatore è ben pagato, penso che sia uno dei più pagati a livello europeo. Domani tutto si sposta sulla vicenda politica, perché Ghizzoni parlerà di che cosa, se, e dirà e confermerà se, come dice l'ex direttore De Bortoli, la Boschi gli chiese di interessarsi di Etruria oppure se invece questo non è mai avvenuto. Il tema è evidentemente politico, perché Unicredit non ha mai fatto un'offerta per Etruria, ma è fondamentale per il futuro politico del ministro, dell'allora ministro sottosegretario Boschi. Questo è innegabile, infatti ne parleremo domani. Grazie Marco Ferrando, andiamo, e un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, libera la voglia di fare.